Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto apposta per noi. In queste storiacce la cronaca rivive nella penna e nella voce di un autore ogni domenica diverso. Boston, 14 febbraio 2002. Doveva essere un San Valentino romantico. Avevano acquistato un letto e quello era ufficialmente il primo passo verso qualcosa di duraturo. Entrambi, infatti, credevano nell'amore eterno. Avevano scelto insieme quel mobile un sabato pomeriggio. Non avevano ancora una casa. Così quel letto sarebbe rimasto presso il venditore finché non ne avessero trovata una. Provando a fare un passo indietro, non c'è dato sapere come fosse cominciata la loro storia. Ciò che si sa è che loro era un amore da cartolina, fatto di interminabili telefonate sdolcinate, di tenerissimi e coccolosi animaletti di peluche, di coni variegati, fragola e cioccolato. Alcuni gli dicevano che sarebbe bastata una convivenza, in fondo. Ma loro avevano lo stesso deciso di coronare quei piccoli sogni d'amore nell'unico, indiscusso e universale modo di coronare i piccoli sogni d'amore: il matrimonio. Dopo appena 6 mesi da quella decisione erano pronte le partecipazioni per convocare amici e parenti. Poi trovarono casa. Era vuota, naturalmente. Così la riempirono di oggetti che sarebbero stati spettatori per molto, molto tempo della loro vita. Mancava solo quel letto acquistato per primo. Tanto era lì. Si erano lasciati travolgere dalla smania organizzativa, ma lui un giorno notò che in quella catena di eventi che li avrebbe condotti all'altare mancava qualcosa. Non l'aveva mai chiesta in sposa. Volle fare le cose secondo tradizione, anche se in ritardo, con tanto di domanda ufficiale e anello. Scelse come giorno fatidico per la richiesta proprio quello più indicato per questo genere di cose: San Valentino, a 2 mesi dalle nozze. Il 14 di febbraio lei si alzò di primo mattino. Si aspettava la consueta telefonata dell'innamorato che le augurasse il buongiorno, ma quella telefonata non arrivò. Provò a chiamarlo lei, ma senza successo. Il cellulare era staccato. Alle 10 avevano appuntamento alla casa che avevano preso in affitto per attaccare insieme le tende. Lei si presentò puntuale, ma lui non c'era. Quella stessa mattina, una signora ottantenne, a cui la motorizzazione aveva negato il rinnovo della patente 10 anni prima, decise di prendere la sua vecchia Ford, come faceva ogni giovedì, per raggiungere le amiche che l'attendevano presso la sala bingo della parrocchia. La signora, anche per via del fatto che quel giorno aveva litigato con la figlia, sovrappensiero imboccò la superstrada a 4 corsie controsenso. Dopo aver percorso almeno 1 chilometro, schivando autocarri e utilitari e maledicendo i conducenti che le suonavano contro, andò a infilarsi sotto un camion della Nettezza Urbana, morendo sul colpo. Risultato? Una fila lunga almeno 8 chilometri. In quella coda c'era anche un furgone per le consegne. I due addetti pronosticarono che ci sarebbero volute almeno un paio d'ore per uscire da quel casino e che pertanto avrebbero dovuto effettuare le consegne con notevole ritardo. Intanto, lei non immaginava minimamente che quell'evento la riguardasse direttamente. Vinta dall'ansia, decise di andare a cercare il futuro sposo, convinta in cuor suo che gli fosse accaduto qualcosa di brutto. Andò al suo ufficio, a casa sua, chiamò tutti i loro amici e anche qualche conoscente. Esaurite le idee, cominciò a contattare i numeri di emergenza. Polizia e ospedali, però, non avevano notizie di lui. Arrivò la sera e dopo averlo cercato in lungo e largo senza fortuna, fece ritorno nella casa che sarebbe diventata il loro nido d'amore. Sul pianerottolo si imbatté nella prima sorpresa: un enorme pacco regalo incartato da un nastro rosso con tanto di bigliettino. Sorrise a quella vista. Non si era sbagliato. L'uomo che aveva scelto come futuro marito era pieno di risorse. Aprì il bigliettino e lesse, divertita e commossa. Lui le annunciava che nella scatola c'era il loro divano. Quindi lui la invitava ad aprire in fretta la scatola. Le parole "in fretta" usate nel biglietto non la insospettirono. Solo dopo avrebbero acquistato un fatale significato. Il medico parlò di soffocamento, di stato di costrizione e di disagio della vittima dovuti alla postura nella scatola. Il tutto aggravato dalla speciale circostanza che il furgone delle consegne fosse rimasto imbottigliato nel traffico per almeno 2 ore a causa di un incidente. I giornali titolarono: ottantenne percorre la superstrada contromano e un uomo muore soffocato in una scatola. Donato Carrisi, Il suggeritore, Longanesi, 468 pagine, €18,60.